è una usanza tra i figli di Dio definita con un'espressione che risulta un poco oscura a chi possiede una cultura cattolica romana, è la cena del Signore. Non che questa usanza sia del tutto sconosciuta dai mass media, ma se resta per lo più ignorata è perché la cena del Signore, il rituale dei figli di Dio, trova corrispondenza in un rito ma con valenze diverse del cattolicesimo romano, ossia la messa. Ma la cena del Signore e la messa sono due cose diverse e contrarie. Perché i figli di Dio celebrano la cena del Signore? Come la celebrano? Le domande sono più che lecite, per questo è opportuno esaminare questo importante rito nel suo insieme. Nel fare questo vedremo 1. Chi ha istituito la cena del Signore? 2. Perché è stata istituita? 3. Per chi è stata istituita? 4. Quando e come deve essere praticata? 5. I simboli usati. 6. Il significato dei simboli. 7. Chi non può partecipare alla cena del Signore. 1. Chi ha istituito la cena del Signore? Come per tutte le istituzioni cristiane, la cena del Signore è stata stabilita da Gesù Cristo. Ne fanno accenno i 4 Evangeli, e così la descrive l'Evangelista Luca, 22.1720. Mentre mangiavano la Pasqua Gesù, prese il calice, rese grazie e disse ai discepoli: «Prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna, finché il regno di Dio sia venuto». Poi, preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi». In concomitanza della Pasqua ebraica, Gesù istituì un altro rituale che avrebbe sostituito la festa dei giudei e che in seguito sarà chiamato la cena del Signore. Si chiama cena perché Gesù la istituì alla sera. Questa cena è del Signore perché è stata istituita da Lui. 2. Perché Gesù ha istituito una cena? Lo disse Gesù stesso. Perché coloro che hanno posto fede in Lui possano ricordare il suo sacrificio. Perciò, lo scopo della cena del Signore non è, come insegna il cattolicesimo romano, il rinnovamento del sacrificio di Cristo, ma semplicemente il ricordo di ciò che Egli ha compiuto. 3. Per chi ha istituito la cena Gesù Cristo? La risposta a questa domanda non può essere che una sola: per tutti coloro che si sono arresi a Cristo, quale è unico Signore in tutti i settori della loro vita, compreso quello spirituale. Se qualcuno ha come autorità spirituale un uomo come il Papa o altro, non è idoneo a prendere la cena del Signore, perché sarebbe un controsenso. Nessuno può servire a due padroni, e se per padrone si ha un'autorità religiosa umana, non si può avere come padrone Gesù Cristo. Così, figli di Dio che hanno come unica autorità in materia di fede e di condotta Cristo Gesù sono autorizzati a prendere la cena del Signore. In quel gesto essi ricordano che devono dipendere totalmente dalla volontà di Dio, espressa nella sua parola. Generalmente chi prende la cena del Signore è già stato battezzato. Non perché senza il battesimo cristiano praticato per immersione totale in acqua non si possa partecipare alla cena del Signore, ma perché è senza senso compiere un gesto pubblico come la cena del Signore, quando non si ha il coraggio o non ci si vuole identificare con i figli di Dio mediante il battesimo. 4. Quando e come deve essere praticata la cena del Signore? Per rispondere a queste due domande, è opportuno chiedersi quando e come i primi credenti in Cristo prendevano la cena del Signore. L'Apostolo Paolo ne fa un accenno nella sua prima lettera ai Corinzi. Ora in quello che vi ordino io non vi lodo perché vi riunite non per il meglio ma per il peggio. Prima di tutto, perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena, e uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ora non avete delle case per mangiare e bere, o disprezzate la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò. in questo non vi lodo. Pertanto, fratelli miei, riunendovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, affinché non vi riuniate per attirarvi un giudizio. 1 Corinzi 11.1726. I primi credenti si riunivano alla sera per mangiare un pasto, e durante il pasto, meno forse alla fine meno, ricordavano la morte di Gesù con del pane e del vino, ma commettevano un grosso errore. Il pasto era diventato ragione di divisione e di orgia, e per questo non mantenevano lo spirito con il quale dovevano ricordare la morte di Gesù. Così Paolo ordina di prendere il pane e il vino non come mezzo per saziarsi, ma come simboli e con decoro, per ricordarsi semplicemente di Gesù. 5. Quali sono i simboli usati nella cena del Signore? La risposta è abbastanza ovvia perché in tutti gli Evangeli si parla di calice con il vino e di pane. Su questo non ci sono dubbi. Eppure ci sono credenti che per ragioni morali e culturali al posto del vino prendono del succo di frutta. L'ideale sarebbe ovviamente ricordare la morte di Cristo con del succo d'uva, anche perché la parola di Dio definisce il vino il sangue dell'uva, Genesi 49.11. Ma, calandosi nella loro realtà, è difficile pensare che sia sbagliato prendere del succo d'uva al posto del vino. Anche perché quando ci sono delle ragioni serie, Dio non è certamente legato ad un liquido per ricordare la morte di Gesù. Il cattolicesimo romano, per esempio, usa un'ostia al posto del pane. Ma questo potrebbe anche essere lecito se non fosse perché insegna che l'ostia è il corpo di Cristo. Ritenere che il vino sia il sangue di Cristo e il pane sia il corpo di Cristo è veramente un'assurdità, alla quale la Scrittura non fa neppure accenno. Mentre in tutta la parola di Dio viene detto che il sacrificio di Cristo è stato compiuto una volta per sempre. Perciò, più che fare una battaglia sui simboli, è saggio preoccuparsi sul valore che noi attribuiamo a quei simboli. E, meglio bere un succo d'uva ritenendolo tale, che usare del vino, considerandolo il sangue di Cristo. 6. Qual è il significato dei simboli usati nella cena del Signore? In parte è già stato detto. Essi ricordano la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Questa definizione contiene in sé molte verità. L'apostolo Paolo, meditando sulla morte di Gesù, scrisse ai credenti di Corinto: «Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro». 2 Corinzi 5.1-4.15. Il pane e il vino ricordano non solo la morte e la resurrezione di Cristo, ma anche la morte e la resurrezione di chi ha posto fede in Lui. Perciò, nel prendere la cena del Signore, il credente ricorda meno, o deve ricordarsi meno, che è già morto con Cristo, con una libera scelta di rifiutare tutto ciò che è contrario al volere del Dio Trino, ed è risorto con una nuova volontà di vivere da ora in poi al servizio di Cristo. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. 7. Chi non può partecipare alla cena del Signore? Per alcuni la cena del Signore è del Signore, perciò tutti possono parteciparvi, ma come in tutte le cose, ogni assoluto nell'ambito umano stroppia. Solo in Dio si possono trovare gli assoluti senza che questi si trasformino in eresie. Se alla cena del Signore avessero accesso tutti l'apostolo Paolo, non avrebbe dato le seguenti indicazioni. Ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. 1 Corinzi 11.2632. Chi prende del pane e del vino in memoria di Cristo deve necessariamente e obbligatoriamente credere nell'opera di Gesù e, quindi in Lui stesso quale Salvatore e padrone della sua vita, perciò si deve astenere dai simboli chi è incredulo o religioso formalista che compie il gesto per abitudine. Inoltre, tra coloro che credono, devono astenersi dai simboli tutti quelli che non sono consapevoli di quello che fanno, o la fanno perché lo hanno sempre fatto. L'Apostolo Paolo aveva una certa autorità per imporre a certuni di non prendere il pane e il vino, ma è notevole che egli abbia preferito fare appello alle conseguenze di chi prende i simboli in modo non appropriato. Infatti, chi prende il pane e il vino indegnamente, cioè in modo non consapevole di quello che sta facendo, ne subisce delle conseguenze quali la malattia e la morte. Così, chi prende la cena del Signore deve esaminare se stesso circa la propria consapevolezza riguardo alla serietà e alla solennità del gesto che compie, anche per evitare una giusta correzione da parte di Dio. La cena del Signore è quindi un memoriale della morte e della resurrezione di Cristo. È un atto di comunione con Dio, un atto di comunione con i credenti, un atto che ricorda il credente che non vive più per se stesso, ma per colui che è morto e risuscitato per lui. Se fosse così, vi sarebbero meno credenti superficiali, meno credenti ammalati e una Chiesa molto più attiva nel predicare il regno di Cristo. Onoriamo quindi la cena del Signore. Febbraio 2007, Ellero.